sapeva quasi niente, guardava ancora tante sante, ma non era divertente, parlando più della gente, guardare ancora divertente. Mamma mia, fa quello che poi non ho.